per scoprire quelle date che ho detto in un modo molto disordinato, le trovate tutte ordinate sul sito www.teatrosenzatempo.com/Altamerini. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Teatro 2, dal 20 al 24 febbraio 2019 con Dio arriverà all'alba. Un saluto e un ringraziamento all'autore Antonio Nobili. Antonio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, lo stesso in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi progetti. Grazie.